Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Essere un campione credo che voglia dire allenarsi con costanza, sapere trarre un insegnamento anche dai momenti più bui e non abbattersi mai, ma avere sempre la forza di rialzarsi, riprovarci, combattere, crederci. Hanno sognato, combattuto, lottato e vinto la loro sfida. Sì, perché la loro sfida era quella intanto di andarci alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, in quella piscina paralimpica in cui si riflettevano in quell'acqua i loro sogni e le loro speranze. E poi questi campioni dello sport italiano non solo ci sono stati a Rio 2016, ma che pacco di medaglie che hanno riportato indietro, eh? Adesso proviamo a fare i conti, ma tra ori, argenti e bronzi, davvero altro, non so neppure se sull'aereo di ritorno ci sono stati tutti. Ebbene, la storia che vi raccontiamo oggi a Olimpia è una storia davvero particolare ed ha per protagonisti 7 nuotatori paralimpici italiani che sono diventati protagonisti della loro sfida sportiva, ma anche di uno splendido documentario, I Pesci Combattenti, che racconta proprio la loro rincorsa a quelle Paralimpiadi che poi li hanno visti protagonisti in quell'acqua. Autore di questo documentario dedicato ai pesci combattenti è il nostro ospite di questa sera, un collega del Sole 24 Ore, ma in realtà devo dire non solo collega ma anche grande amico, Riccardo Barlam. Buonasera e benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera e grazie tante per questo invito, sono molto felice di essere qui con te e con voi ascoltatori. Beh, prima diciamo la sfida dei campioni paralimpici di cui adesso andiamo a parlare, ma la prima sfida è stata anche la tua come regista, perché non nasci in quell'ambito e hai scelto davvero un linguaggio particolare per raccontare i pesci combattenti. Bah, tutto nasce da un'esperienza che ho avuto in vasca, perché a un certo punto io faccio sport, io penso che ho questa idea che lo sport aiuta la vita, no? Quindi negli anni ho fatto tante cose di resistenza, maratone, gran fondo in bici, ho fatto l'Ironman, un po' di cose così. E ho scritto anche dei libri sull'argomento. L'idea è appunto che ognuno può, come dire, star meglio facendo sport, dandosi degli obiettivi apparentemente impossibili. E un giorno, per vari motivi, ho conosciuto questi ragazzi che si allenano a Milano, sono 7 tra i 21 atleti paralimpici della nazionale italiana, che si allenano a Milano, e niente, ho chiesto all'allenatore se potevo provare a allenarmi con loro. E niente, sono sceso in vasca, io sono capace di fare l'Ironman, che sono 3 km 8 a nuoto, 180 in bici e 42 km di corsa, e questi ragazzi continuavano a sfrecciarmi attorno, no? A fare le ripetute. Questi sono squali, no? Pesci combattenti, E dopo qualche minuto che stavo in acqua, il mio ego è finito sotto i piedi, mi sentivo io disabile, e mi sono detto no, guarda, grazie per i consigli, vi aspetto alla fine dell'allenamento. Beh, allora ne abbiamo subito uno in linea di pesce combattente, eh? Ariola Trimi, benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Buonasera, grazie per l'invito. Ariola, è toccato pure far da bagnini per salvare Riccardo Barlam che stava affogando in piscina con voi, perché l'avete fatto sentire piccolo, un piccolo Nemo insieme a voi pesci combattenti. No, in realtà noi non abbiamo fatto altro che continuare a fare quello che per noi è la normalità. Ti pare poco? Loro si allenano tutti i giorni 2 ore e mezza in acqua, e Ariola lei è campionessa del mondo, ha il record del mondo dei 100 metri stile libero nella categoria S4, ha 2 titoli mondiali nei 100 e 200 e ha vinto l'argento nei 50 stile libero a Rio, nella sua categoria. Non ha vinto l'oro nei 100 e 200 perché non c'erano le sue gare, che sono appunto quelle più lunghe. Beh, anche perché se no a Tokyo poi non che ci vai a fare, no Ariola? Se avessi vinto tutto in Brasile. Sperando che rimettano quelle gare a Tokyo. Ecco, vedremo. Beh, poi raccogliamo le firme. Senti, Ariola, immagino una sfida davvero importante. Ho visto il documentario che intanto sta cominciando a circolare per festival e cose, sono sicuro che arriveranno anche i premi presto. Mi è piaciuto molto vedere come ognuno di voi entra in acqua, no? Ognuno a partire dalla propria diversa abilità al suo modo di interpretare il nuoto e di vivere l'acqua. Mi è sembrato simbolicamente un invito a suonare ognuno la propria musica in un mondo che ci vuole invece piuttosto stereotipati. No, in acqua diciamo che ognuno ha usato proprio le parole cose giuste. Ognuno di noi può esprimersi e per quello che è realmente, cioè non c'è uno standard. Io parto direttamente dall'acqua perché non ho la possibilità di tuffarmi, c'è chi può tuffarsi e lo fa, c'è chi magari ha bisogno di un sostegno nel tuffo, c'è chi parte seduto sul blocco, ci sono diversi modi di vivere l'acqua. Per quanto mi riguarda, l'acqua, cioè, è un elemento essenziale nella mia vita, nel senso che in acqua riesco a sentire il mio corpo e a capire come si muove, cosa che difficilmente riesco a fare a secco. Quindi per me ogni volta entrare in acqua è un momento di riscoperta di quello che succede ed è fantastico. Ariela è una grande campionessa, per capire come è forte lei, lei l'anno scorso ha fatto il record mondiale, è stata un po' la musa ispiratrice del mio film, perché a un certo punto ha fatto questo record del mondo, 1,26 sui 100 metri stile libero, giusto Ariela? Sì, esatto. Allora, per capirci, Federica Pellegrini quando era un po' più giovane per fare i 100 ci metteva 53 secondi e qualcosa, ok? Mm-hmm. Ariela nella sua disabilità, quindi senza l'uso delle gambe, con un braccio che va e non va, a volte sì, a volte meno, ci mette 30 secondi di più. E io ci metto molto di più e, e ma vi invito a farle. Questi appena toccano l'acqua gli spuntano le zanne, ragazzi. Ma mica, questi sono campioni, questo è il bello. Infatti, Riccardo, giustamente dicevi sì, ma di questa notizia poi il giorno dopo sui giornali... sulla Gazzetta non c'era neanche un trafiletto. Sì, non che sul Sole o sul Corriere, no, per par condicio, diciamoli tutti. Non è che proprio l'Italia... diciamo così. L'Italia non è che si è fermata per questa cosa. E quindi insomma, da qui l'idea di raccontare le loro storie, di farli conoscere. Io ti ringrazio, spero per i tuoi auspici nei festival, così, ma dei premi, quello che volete, ma io, come dire, sarei molto più felice se questo documentario potesse essere visto da più persone possibili, più che i premi che... Ma assolutamente, assolutamente, anche perché Ariola e Riccardo, sottolineiamo un concetto, voi siete l'eccellenza, no? Dello sport paralimpico, Rio l'ha dimostrato, vi invito, no, se dico il medagliere finisce la puntata, quindi non lo posso fare, vi rimando a internet per vedere che cosa hanno conquistato Alessia Berra, Arianna Talamona, Ariola Trimi, Fabrizio Sottile, Federico Morlacchi, Francesca Secci e Giulia Ghiretti, questi protagonisti dei Pesci Combattenti, ma credo che la vera sfida a cui voi contribuite è quella di uscire di casa per andare a fare lo sport, no? Perché non tutti arriveranno alle Paralimpiadi, ma tutti devono andare scendere in campo, no? Assolutamente, infatti personalmente credo che la cosa più importante del film, indipendentemente dalle medaglie vinte, perché quelle sono solo l'ultimo step, prima di quello c'è tanto altro, intanto l'accettazione della propria situazione, il voler reagire, il voler fare qualcosa per se stessi, per migliorarsi, per realizzarsi. Becchi quella che sinceramente lavora 8 ore, poi prende la macchina, si fa un'ora di traffico per andare ad allenarsi, per poi tornare a casa distrutta. Quella sei te, però sei te, esatto. Perché lavori in banca, ti fai l'ora di traffico, quindi è un po' autobiografico, esatto. Questo racconto, tanto per capirci. E quindi, però, cioè io ci tengo, questa è la mia vita, io ho lavorato tanto per arrivare fino a qui, e il messaggio che mi piacerebbe che passasse è che ognuno di noi deve cercare, con la propria disabilità, con le proprie capacità residue, con tutto quello che ha, di cercare la sua normalità, la nuova normalità, perché ognuno di noi può adattarsi a quello, magari può anche non riuscire ad accettarlo, ma sicuramente deve riuscire ad adattarsi e a fare qualcosa per andare avanti. Assolutamente. Questo documentario, diciamo che porta un po' a galla tutto il percorso mio e degli altri ragazzi, che in qualche modo questo percorso appunto l'abbiamo fatto e ci siamo tolti delle soddisfazioni. Assolutamente, avete capito dalle parole di Ariola perché è Riccardo i Pesci Combattenti. Beh, tra l'altro Ariola pure bellissima voce, qua c'è pure il rischio che mi ruba il posto qua a Radio 24, attenzione perché sento un futuro da DJ. Senti, allora Riccardo, ancora non abbiamo spiegato perché ci chiamiamo Pesci Combattenti. Allora, intanto salutiamo Ariola Trimi che tra il lavoro in banca e in piscina già ci ha dedicato 10 minuti. Allora Ariola, intanto grazie davvero per essere state stasera a Olimpia e in bocca al lupo per i prossimi tuffi, direi. Grazie a voi, Crepi, e buona continuazione. Appuntamento in calendario, caro Riccardo. I mondiali in Messico a ottobre, mi sembra, no? Sì, quindi mondiali in Messico. Da 30 settembre a 6 ottobre. Quindi dal 30 settembre pronti per fare il tifo per Ariola e gli altri pesci combattenti. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, poi torniamo insieme qui a Olimpia, la città dello sport. Olimpia, miti e verità dello sport. Il silenzio prima del via, lo sguardo perso da qualche parte di quella grande piscina, in qualche luogo dell'anima. Take your mark, prendi il tuo posto sui blocchi. Take your mark. E poi quel suono secco, come uno schiaffo, un attimo, senza più tempo per pensare. Ti stendi, ti allunghi, scatti come una freccia che parte dall'arco. Spingi, spingi, spingi, spingi! Nuoti in apnea, senza respirare, tutto di potenza, di tecnica, testa e cuore. Le bolle, l'acqua che esplode attorno a te. Velocità, forza pura, un pesce combattente. I pesci combattenti, con i pesci combattenti ci tuffiamo in piscina oggi a Olimpia, lo ricordiamo, questo straordinario documentario curato dall'amico e collega del Sole 24 Ore Riccardo Barlam, che racconta la corsa verso le Paralimpiadi di Rio 2016 di 7 dei 21 campioni paralimpici italiani e che poi a Rio hanno fatto man bassa di medaglie, davvero rimpinguando il nostro medagliere. Riccardo Barlam, ancora non abbiamo spiegato perché pesci combattenti, mi pare che c'è un tatuaggio, no? Sì, che allora t'ha ispirato. Io all'inizio l'idea era di chiamarli proprio perché questi ragazzi sono un po' speciali, fanno con passione quello che fanno, ci mettono tanta forza, tanta dedizione. Volevo chiamare questo lavoro la migliore, la meglio gioventù, però c'è già qualcuno che ha fatto un film con questo titolo. Allora ci è venuto in mente guardando un tatuaggio che una delle atlete ha sulla spalla, che si chiama Arianna Talamona, campionessa europea di nuoto, una bellissima ragazza, e lei ha questo tatuaggio che è un pesce combattente. Io sinceramente non conoscevo i pesci combattenti, sono dei piccoli pesciolini che sono nei mari caldi asiatici, in certi paesi fanno le scommesse su questi pesciolini, fanno come le gare tra i cani, no? Li fanno combattere. L'idea del combattimento in questo caso non è cruenta, ma è un'idea di forza, di eleganza, di velocità, perché loro sono molto veloci. Eh sì, il combattimento principale è con gli avversari, ma soprattutto col cronometro. Ora al microfono abbiamo innanzitutto un amico di Olimpia, perché è già stato ospite nei nostri studi per raccontare in particolare la sua storia, ma anche, se mi è concesso, il più combattente o quantomeno il più vincente dei pesci combattenti, perché il nostro ospite di tutti gli italiani in realtà, che risponde al nome di Federico Morlacchi. Benvenuto Federico Olimpia, ben ritrovato. Buonasera. È tra Olimpiadi e Paralimpiadi l'atleta italiano che ha vinto il maggior numero di medaglie a Rio 2016. Il totale, Federico, tanto per non perdere il conto? Totale 29 internazionali, 7 olimpiche, 15 europee e 7 mondiali. E il resto spiccioli, insomma, il resto lo dai di mancia quando compri così al ristorante, insomma. Beh, dai, dice, no, quel che si può, no? Ecco, chiamo il piccolo Phelps. Ecco, il piccolo Phelps, anche perché, tra l'altro, spesso ti tocca, lo diciamo qua con Riccardo, ti tocca tuffarti con dei bestioni che ti sopravanzano anche fisicamente, no? Per dimensioni, tu che invece punti più sul ritmo e frequenza, se non sbaglio, nella tua nuotata e tecnica. Di sicuro non sulla lunghezza, purtroppo dal però basso del mio 1,70 non è che posso combattere, per fortuna che non è tutto, No, lui ha una quantità incredibile, li batte tutti questi ragazzi. Senti, per ora insomma, diciamo che poi la verifica, tra l'altro, subito a Città del Messico, no? Ai mondiali. Sì, mondiali che saranno a ottobre, quindi è un periodo un po' strano della stagione, però stiamo lavorando bene, quindi siamo abbastanza sereni. Poi ogni gara è a sé, quindi noi vedremo. Senti, nel ruolo di nuotatore attore come ti sei trovato? Perché comunque, diciamo, uno degli aspetti a cui voi dovete anche abituarvi è che si stanno accendendo i riflettori sul mondo paralimpico, no? E quindi ogni tanto le telecamere entrano nelle vostre piscine, si cerca di conoscere di più le storie di voi campioni paralimpici. Ecco, tutto sommato ci si abitua o ancora un po' una scocciatura? Diciamo che nuoto molto meglio di come recito, e per fortuna, cioè, purtroppo sono troppo negato, vabbè. Quindi diciamo che per le medaglie paralimpiche tutto a posto, ma per l'Oscar, caro Riccardo, dovrete attendere. No, se l'è cavata, alla grande, dai. Però ecco, comunque raccontarsi come atleta si riesce, insomma, in un canovaccio che, in cui vengono inserite tutte le storie di voi protagonisti, no? Sì, beh, devo dire che rivedere a distanza di mesi quello che è stato il percorso che ci ha portati tutti e sette a un'Olimpiade è qualcosa di quasi commovente e estraneo, perché è una cosa così grande che mentre la prepari non ci pensi, sei troppo concentrato sull'obiettivo, mentre a riguardarla con il senno di poi ti rendi conto di cosa hai fatto. Quando è che ci si rende conto di dove ci si trova, appunto? Cioè, la cerimonia di inaugurale, oppure quando si è sul blocco di partenza, quando c'è la chiamata in camera di chiamata, appunto? Quando è che dici, oddio, cinque cerchi davanti, ma che ci sto pure io qua? Beh, io forse non l'ho ancora realizzato, perché nella mia mente c'è l'idea che ogni gara deve essere come le altre, perché entrano in gioco molto fattori in più. Con Micaela, la nostra psicologa, abbiamo lavorato molto anche sul fatto di far sì che la gara olimpica fosse vissuta come una gara, se vuoi, normale, perché c'è molta più pressione, aspettative, però devo dire che i risultati sono arrivati, quindi abbiamo lavorato bene. Riccardo, se non sbaglio, ci sono anche delle voci d'eccezione, no, che hanno contribuito alla realizzazione dei Pesci Combattenti, una campionessa olimpica, dei campioni della radiofonia, dici un po'. Allora, il lavoro è un lavoro low cost, diciamo, dove tanti hanno messo la loro passione, i soldi erano pochi, però siamo riusciti a fare un bel risultato grazie a questo. Tanti professionisti molto bravi nel montaggio, nella fotografia, così. Vilma Conte tra le tante. E poi musicisti, Paolo Fresu, Moby mi ha dato le musiche, e Federica Pellegrini, che è un po' l'icona del nuoto italiano, e la voce narrante nella parte più, come dire, sportiva del documentario. Poi ci sono Linus e Nicola Savino, anche loro sportivi, che hanno messo la loro voce. Insomma, bella compagnia di giro, Federico, insomma, tu hai prestato le braccia a queste voci, quindi loro è stato quasi un onore, guarda, ne è valsa la pena solo per questo. Federico, però, va ricordato, ha fatto 5 finali a Rio, ok? E quella che è andata peggio ha preso il quarto posto, perché ha vinto 4 medaglie, quindi ha vinto 5 medaglie, una di legno, diciamo così. Certo. Grazie, Riccardo. E poi 4 medaglie, un oro e 3 argenti, di cui un argento, Federico, per quanto? Il quarto posto per 8 centesimi dal bronzo, ecco. E uno degli argenti è pochino dall'oro, no? Pochissimo. Sì, erano 2 decimi, 25... centesimi. Allora, siccome hai vinto tanto, però c'era Riccardo che mi ha detto, gli voglio fare una domanda su una sua sconfitta che ancora non gli è andata giù, quindi ecco, lascio a Riccardo questo onore prima della conclusione, perché così ti lasciamo magari... non solo combattente ma anche un po' incazzato, va. Ma ce la racconta, lui ha il record mondiale sui 100 farfalla, se non sbaglio, Federico, dimmi, no? E, sì, esatto. C'è stata una volta che partiva da favorito e... mondiale 2015, okay. Vedi come sarà andata bene, com'è andata? Secondo per 7 centesimi. Cosa vuol dire 7 centesimi? Niente, cioè il dito è uno in meno, è uno in meno degli 8 centesimi del quarto posto. La piastra. Insomma, quindi con 15 centesimi ti sei giocato due medaglie più prestigiose. Ma è lo sport, Federico. Bellezza dello sport, certo. Nessuno meglio dei Pesci Combattenti ce lo ricorda, no? Non solo col loro medagliere, ma soprattutto con la loro quotidianità, con la fatica e anche quelle risate. Perché poi questo è un documentario che non è che ci si commuove solo. Alla fine siete voi coi bighez che fate il giro del mondo, che saltate come cartoni animati verso Rio 2016, in un finale davvero gustoso. Allora, Federico Morlacchi, intanto grazie per essere tornato a Olimpia. Sono certo che non è l'ultima volta, quindi ti riaspetto da queste parti. Certo, volentieri, quando vuoi. E allora magari ci ritroviamo dopo i mondiali di Città del Messico per sapere com'è andata. Riccardo Barlam, ringraziandoti, diciamo che adesso i pesci combattenti nuotano nell'etere, cioè si cerca di far vedere il documentario il più possibile, no? Sì, speriamo che qualcuno si decida di farlo vedere su Sky o su Rai, insomma, l'Italia sì, è un paese complicato. Mediaset, streaming, siti web, venghino, signori, venghino, io l'ho visto, è veramente uno spettacolo. Grazie molto. Intanto ringrazio anche Riccardo, non solo per essere stata Olimpia, ma soprattutto e davvero di cuore per questo splendido I Pesci Combattenti. Grazie. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.